You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi, solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti anche questa sera a questo appuntamento di Radio 24 che vuole occuparsi nel suo piccolo dell'Italia che cambia attraverso la presenza di stranieri che vivono nel nostro paese da qualche tempo oppure persone che hanno una parte della propria famiglia altrove. Sono stata rimproverata garbatamente da un ascoltatore, ogni tanto arrivano dei complimenti e ogni tanto arriva anche qualche critica. Questo gentile ascoltatore via mail mi ha rimproverato perché secondo lui il tono leggero della trasmissione in cui parliamo di couscous, di anatra all'arancia, di piatti di origine straniera non rispecchia il problema delle persone straniere in Italia, che talvolta rappresenta un problema. Lo spirito però di questa trasmissione è uno spirito garbato, leggero, che vuole sì mettere in luce il contributo di queste persone all'Italia, perché la presenza di stranieri non è solo un problema, è anche un contributo positivo. E inoltre lo vuol fare con tono leggero. Ci sono altri spazi, molti spazi di Radio 24, trasmissioni, rubriche, IGR e molti di questi io stessa li curo, che si occupano della presenza degli stranieri in Italia in modo molto serio, talvolta purtroppo anche drammatico. Insomma, noi in questo spazio vogliamo invece parlare dell'Italia che cambia, anche della cucina italiana che cambia grazie al contributo di questa presenza. D'altra parte io sono veneta e so benissimo che i bigoli in salsa non ci sarebbero se non ci fossero stati anche gli arabi a Venezia. Ma prima di presentare la nostra partecipante di oggi, la nostra ospite, io vi faccio sentire un audio. Vincitore della categoria Innovazione Monogram Award 2014 è Rodoslava Petrova. E quindi contributi anche di questo tipo, di imprenditori, imprenditrici straniere che si fanno largo in Italia, come la nostra ospite Rodoslava Petrova. Buonasera. Buonasera. Benvenuta alla nostra trasmissione. So che lei usa anche un nomignolo, no? Sì, Radi di solito mi chiamano. Radi, perfetto. Radi. Anche noi useremo questo nomignolo che ci semplifica la vita. Lei è stata premiata con questo premio Monogram Award per l'innovazione. Complimenti innanzitutto, perché ha avviato una cooperativa di pesca composta da sole donne, così? Sì, è vero, la nostra cooperativa è di 7 ragazze, sole donne e tante straniere. Io sono bulgara, c'è una ragazza brasiliana, una polacca e le altre sono italiane. Insomma, ha vinto in questa sesta edizione di questo premio che punta a promuovere proprio l'eccellenza delle aziende gestite da imprenditori stranieri in Italia, e non sono poche, pensate che sono quasi 500.000 sono state nel 2013. Questo è un premio che vuole così mettere in luce anche appunto il contributo positivo degli stranieri in Italia. Ovviamente questo contributo positivo non racchiude tutto quello che significa la presenza degli stranieri in Italia, ma è giusto anche dare spazio a questo aspetto. E noi vogliamo parlare con lei questa sera di innovazione, visto che cooperative di pesca composte da donne in Italia in realtà non ce ne sono, non ce n'erano prima della sua, è così? Sì, è così. Noi siamo la prima e finora unica cooperativa di donne pescatrici e siamo gli unici anche a produrre con metodo biologico i nostri prodotti di pesce. Anche questo ci fa innovativi e singolari nel nostro campo. Radi, lei stasera è venuta a cena da noi e so che ci ha portato un piatto particolare. Che cos'è? È pesce nel letto di verdure. Adatto, insomma, per la sua attività. Esatto, io amo il pesce e questo mi facilita tanto il lavoro, lo faccio con passione, cucino con passione le cose che insomma pesco. Che raccoglie dal mare. Sì. Ma è un piatto di origine bulgara oppure un piatto che ha imparato a fare in Italia? Un piatto che non so che origine ha, perché va bene per tutti i posti dove c'è il pesce e dove ci sono le verdure. Molto mediterraneo, direi, no? Molto mediterraneo, sì, esatto. Lei mi diceva prima, quando ci siamo sentite prima della messa in onda, che il pesce, come la verdura, c'ha una sua stagionalità. Forse noi ce ne dimentichiamo quando andiamo in pescheria. Sì, è importante la stagionalità del pesce perché i frutti che ci dà la terra e che ci dà il mare sono buoni nella propria stagione, non vanno cercati i frutti fuori stagione che vengono da altri posti, ma questi che sono qua di filiera corta, vicini a noi. E quindi questo piatto di pesce sul letto di verdura può cambiare sia che siamo in estate che d'inverno, saranno due versioni diverse dello stesso piatto? Sì, no, sono quattro versioni diverse perché c'è per ogni stagione. Autunno, sì. Per esempio in questa stagione ci sono eliche di verdure, si fanno anche dalle mie parti, si fanno tante conserve di verdure per l'inverno che ci aspetta. E qual è il pesce del nostro mare che in questo periodo, in autunno, dovremmo consumare perché è di stagione? E in questo momento c'è la razza, ci sono le triglie, molto in questo momento ci sono le triglie, mi scuso, mi sono emozionata. Va bene, non importa, andiamo avanti, non si preoccupi. Sì. Torniamo invece al suo lavoro e alla sua così presenza in Italia. È la prima ospite che proviene dalla Bulgaria di Indovina chi viene a cena. Sono molto contenta di avere un ospite da questo paese. Tra l'altro pochi giorni fa proprio leggevo su un quotidiano, il più importante quotidiano italiano, il Corriere della Sera, il più diffuso, che Sofia veniva consigliata fra le mete turistiche più innovative. Anche la Bulgaria sta cambiando molto, so che lei è stata di recente. Sì, 10 giorni fa circa sono stata a casa mia, ancora considero casa mia là e casa mia qua e non mi confondono le case, però comunque rimane un posticino nel cuore dove anche Bulgaria la chiamo casa mia. E sì, cambiano le cose come ovunque nel mondo, c'è evoluzione continua e così. Ma lei quando è partita per l'Italia? 18 anni fa, del 98. Quindi ha trascorso una buona fetta della sua vita ormai in Italia. Come mai è arrivata nel nostro paese? Per l'amore, ho incontrato un ragazzo italiano in Bulgaria, ci siamo frequentati un anno e poi sono venuta qui. Poi avevo passione per la lingua italiana perché avevo cominciato a studiare l'italiano quando avevo 14 anni e sicuramente speravo che un giorno questa mia passione mi porterà a questo paese così tanto sognato e desiderato. Lei è arrivata in Italia nel 98, sì. Da un paese, non da Sofia, non dalla capitale bulgara, ma da un paese della Bulgaria. Com'era la situazione allora lì e come è cambiata adesso? È cambiato tantissimo perché in quel momento era ancora distaccata, isolata Bulgaria come paese, ora in questo momento è quasi nella comunità europea, una volta non era così, cioè, è stato un boom di novità dopo il mio arrivo in Italia, ora quasi non trovo differenza fra Italia e Bulgaria, tanto si somigliano le situazioni e insomma il modo di vita e mentalità si cominciano a somigliare parecchio, una volta non era proprio così. Come si chiama il paese suo di origine, proprio la cittadina? È la seconda città della Bulgaria, questa è la città di Plovdiv. Che sta in che zona del paese? È nel centro della Bulgaria. Torniamo a parlare di pesca, di imprenditoria straniera in Italia e anche di Bulgaria tra poco con la nostra ospite. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena sulla base di questa canzone, storia di una favola del gruppo rock italiano che era composto anche dal cantante e autore dei testi di origine, in questo caso albanese, La fame di Camilla. Si sono sciolti da poco, peccato. Questa è la storia proprio di una donna che se ne va dal suo paese a cercare fortuna ed è la storia anche della nostra ospite Radoslava Petrova che ha vinto il premio Innovazione del MoneyGram Award. Perché ha avviato una cooperativa di pesca composta da donne. Lei non se n'è andata dalla Bulgaria per lavoro, ma per amore, ci diceva. Però in qualche maniera si è data da fare dal punto di vista lavorativo. Io so che nel suo paese aveva dei diplomi che qui non è riuscita a usare. Sì, io sono laureata in pedagogia, ho specializzazioni in turismo e giornalismo, sempre presso suddetta università, possono essere proprio chiamate anche queste lauree perché ho fatto delle tesi, ho sostenuto degli esami e sono riuscita a finire i miei studi, però comunque io ho tanti interessi e Questi non mi titoli di serve. studio sono serviti a qualcosa in Italia? Sono stati riconosciuti? In Italia non sono stati riconosciuti, per ora non ho più riprovato perché all'inizio non erano riconosciuti, ora probabilmente se decido può darsi che potrebbero riconoscerli, visto che Bulgaria è già nella comunità europea, ma comunque non mi sento non appagata da quello che ho studiato, Ha perché la trovato cultura qualcosa che le piace molto, no? Prima di sì. fare questo lavoro ho letto che ha fatto l'interprete, la babysitter, la cameriera, insomma, si è data molto da fare. Sì, ho lavorato tantissimo, ho lavorato nei ristoranti, ho fatto tanti lavori, anche interprete, sono interprete giurata tutt'oggi, faccio qualche servizio per il tribunale, per la polizia, però ora l'altro è diventato, il mio lavoro è diventato un altro, non è questa Il suo l'attività lavoro è diventata principale. la cooperativa di Sì. pesca a Carrara, in Toscana. Come le è venuto in mente? Come ha cominciato? All'inizio ho cominciato a lavorare dai pescatori uomini nella cooperativa di pescatori, è stato subito un amore di prima vista perché ho visto il mare, ho cominciato a voler uscire con la barca, mi piaceva questo mondo, mi piaceva il modo in cui vivono i pescatori, un po' nomada, anche se non si spostano da quel mare lì, però è sempre un modo molto più rimasto nell'antichità, ma moderno, è tutto un modo particolare di vivere la vita che mi ha affascinato e mi ha trascinato a fare questa scelta. E poi ho deciso, insomma, di dare vita a questa cooperativa composta da sole donne. Ho letto, tra l'altro, alcune, come lei stessa raccontava, straniere. C'è anche una colombiana laureata in criminologia, è così? Sì, all'inizio della nostra cooperativa, ora lei non è più con noi, è tornata nel suo paese per motivi di famiglia, ma comunque sì, Un po' eterogeneo come gruppo, no? Un gruppo in sì. rosa. E immagino però che ci fosse nei vostri confronti da parte degli uomini al porto una certa così diffidenza anche, no? All'inizio. Inizialmente sì, un pochino, ma siamo anche Non state è tanto una in roba da donne, no, tradizionalmente. no, intanto ora mollano, questo era il pensiero, oppure anche spesso lo sentivo, ma vedrai che presto mollano, invece no, invece abbiamo proseguito, anzi ci dà soddisfazione il nostro lavoro. E adesso venite rispettate, avete vinto anche questo premio importante, avete consolidato il lavoro, no? E quindi immagino che adesso ci sia maggior rispetto, anche simpatia verso di voi. Molto, sì, e comunque anche ci danno una mano volentieri perché per loro siamo anche un sostegno dal punto di vista, anche dal punto di vista morale, di forza, proprio vedono un alleato, non un alleato importante, non un concorrente. Quando le è venuto in mente di fare il pescatore, ci ha spiegato che è stato amore verso il mare, ma lei non viene da un posto, un paese affacciato sul mare? Bulgaria è affacciata sul Mar Ma Nero, non il però suo paese, sì. non nel mio paese, sì, però io ho sempre amato il mare perché ho una nonna che, poverina, ora non c'è più, però andavo tutti gli estati da lei sul Mar Nero, e quindi l'amore per il mare è proprio nell'origine, ancora in Bulgaria, poi dopo me la sono portata qui e qua è scoppiato proprio il vero. Ho scoperto il mare, com'è viverlo, non solo vederlo da lontano, non solo vederlo in cartolina. Qual è la sua giornata tipo? Sono tante perché l'attività è molto differente, cioè facciamo produzione, facciamo pesca, facciamo vendita, Quando esce in consegniamo mare, però so che i si sveglia a notte fonda. prodotti. Sì, prestissimo, verso le 4, addirittura le 3 d'estate, sempre più presto perché l'alba viene presto, quindi vanno a tirare sulle reti, poi portiamo, pesiamo il pesce, dividiamo il pesce che abbiamo pescato, lo pesiamo e si porta al banco, alla vendita diretta con i nostri clienti del posto. Perché voi avete un banco al porto, avete anche un negozio, no? Abbiamo sì, negozio con laboratorio dove cuciniamo e prepariamo le nostre conserve di pesce. Come spiegava prima, si tratta di prodotti biologici. Sì, abbiamo scelto anche questa linea per stare sempre vicino alla natura senza utilizzare conservanti, senza utilizzare prodotti chimici nella lavorazione. E facendo anche una pesca sostenibile, perché comunque noi rispettiamo i ritmi biologici del pesce, peschiamo con le reti, con la maglia molto larga, così i giovani esemplari scappano, riescono a riprodursi e noi abbiamo maggior introito dai pesci più grandi, non dai pesciolini piccolini. E poi anche la raccolta differenziata, un occhio particolare all'ambiente, e questo si Perché sposa ci anche sono con la delle pesca. giornate, leggevo in un suo racconto, in cui alzate la rete e dentro non c'è pesce, ma ci sono rifiuti. A Sì, quel punto cosa certo. fate? Niente, si torna a terra, si sistemano i rifiuti e si portano a smaltimento. Purtroppo la giornata è persa, la nottata, la giornata è andata così. Quindi in quel caso fate la raccolta differenziata Sì. in mare e la giornata è persa, ma è un lavoro molto pesante, no? Che dà anche soddisfazioni economiche? Sì, però in questo momento è pesante per tutti. Diciamo sì, non ci si sopravvive. A chi vendete il pesce? Noi vendiamo ai clienti del posto oppure lavoriamo con i gruppi di acquisto solidale, gas, siamo fra le poche cooperative in Italia, pochi imprenditori di pesca che fanno questo servizio dei gruppi di acquisto e per me è grandissima soddisfazione di fare. È faticoso, è molto pesante come preparazione degli ordini, però è vera soddisfazione perché è contatto diretto e ringrazio dai nostri clienti è un pagamento, cioè, troppo bello. Mi sento appagata solo dai sorrisi della gente che mi cerca per il pesce, magari ne facciamo in Lombardia, in Piemonte, in Toscana. Portiamo anche in Emilia Romagna, portiamo pesce, la gente ci cerca in continuazione anche nei periodi quando non portiamo pesce, diciamo d'estate ci fermiamo, loro ci cercano anche nei periodi estivi, ci vengono a trovare, è troppo bello. Un lavoro pesante, no? Andare fuori in mare, portare le reti pesanti. Ci sono dei ragazzi italiani che vengono a chiedervi di lavorare? Sì, vengono tantissimi, ma noi preferiamo rimanere femminile, anche perché abbiamo instaurato un equilibrio che non vorremmo che si spezzasse per niente, proprio è difficile anche lavorare con le persone, quindi bisogna arrivare a questo equilibrio di personale, di soci e così. Quando avete iniziato, avevate un peschereccio, come si chiama? Tutt'oggi si chiama Gabbiano, ancora andiamo con Gabbiano, è ancora piccola barca, non è peschereccio grande. Perché porta male cambiare il nome, no? So che in mare funziona così. Sì, porta male cambiare il nome, però il nome Gabbiano è anche un nome carino per la barca che abbiamo. Quando lei era in Bulgaria, sognava tutto questo? L'avrebbe mai immaginato? Oppure sognava qualcos'altro? No, non pensavo mai di diventare pescatrice, oppure di avere la mia impresa. Io vedevo il mondo diversamente, mi vedevo interprete, mi vedevo guida turistica, però non mi sono mai vista nel ruolo di pescatrice con le stivali, con l'incerata. Non mi sono mai vista in questa veste, anche nei miei sogni più assurdi. Però sono molto soddisfatta del lavoro che faccio. Però la vita, insomma, cambia, anche noi cambiamo quando passa il tempo, no? Tante cose sono mutate, se ho capito bene, anche l'amore per cui era venuta è terminato e quindi è rimasto il lavoro. Sì, è un lavoro che comunque mi soddisfa abbastanza e mi occupa tanto le giornate perché oltre alla parte di pesca che comunque non è abbastanza faticosa, dedico diverso tempo alla parte amministrativa perché comunque la cooperativa va portata avanti e la parte amministrativa mi pesa, suonerà paradossale, però la parte amministrativa mi pesa più di una giornata di mare. Andare in mare, insomma, è la sua passione. E prima ci parlava, brevemente accennava al rapporto con la nonna. Quali sono i ricordi anche dei sapori, dei gusti, dei profumi in Bulgaria, magari legati alla nonna quando era piccola? Cosa mangiavate? Qual era il suo piatto preferito? E mangiavamo un piatto che mi piaceva tantissimo, si chiama lutenica, che è una pasta di peperoni, e io l'adoravo proprio. L'unico modo per mangiare pane era questo, e anche la mia nonna era soddisfatta quando mi dava questa crema che spalmava sopra il pane, che finalmente ho mangiato il pane, perché per lei era essenziale che io mangiassi il pane. Io da piccola non amavo tanto il pane, preferivo mangiare le verdure, la ciccia, le cose intorno al pane, però pane lo evitavo sempre. Lei aveva quel terrore che se non si mangia il pane si rimane affamati oppure succede qualcosa di brutto, e era questo. E E ricordo l'ha più mangiato da grande qui in Italia, riesce a riprodurlo? io non sono mai stata così brava a farlo così come lo fa la mia nonna e la mia mamma, proprio Non non mi siamo mai bravi a fare i piatti riesce. della nostra infanzia. Adesso sentiamo insieme a lei quali sono i piatti tipici di una cucina che conosciamo davvero poco, che è la cucina bulgara. Se qualcosa può definire la gastronomia bulgara è il suo sapore piccante e l'abbondanza di forti condimenti, come il peperone piccante, l'origano, prezzemolo, santoreggia, pepe nero e paprika rossa. Tra i piatti più comuni e tipici si trovano i fagioli bianchi, il cavolo, le zuppe, i piatti di carne di maiale o agnello e il famoso yogurt. Per la sua elaborazione, il latte, sia di mucca, pecora o bufalo, si rapprende mediante il celebre Lactobacterium bulgaricum, agente che può svilupparsi al meglio solo nelle condizioni geografiche e climatiche della Bulgaria. E proprio con una portata a base di yogurt vogliamo cominciare consigliando la Tarator, zuppa fredda di yogurt battuto con acqua, cetrioli in dadi, prezzemolo o finocchio, noci macinate e olio. Un'altra delle zuppe più popolari è la Shkembe Chorba, a base di budella di agnello o di maiale, condita con aceto e aglio. Se quello che preferite sono invece le insalate, niente di meglio della Shopka Salata, la più famosa della Bulgaria, preparata con pomodoro, cetriolo, peperone arrosto e delizioso formaggio bianco grattugiato. Per continuare con i secondi piatti, le kebabce e le kjufte, salsicce e polpette di carne di manzo e maiale molto condite e fatte alla griglia. Per i palati più esigenti, il piatto più raccomandabile è la moussaka, che a differenza di quella greca che contiene melanzane, è composta da patate e carne macinata. Per terminare, niente di meglio che un buon dolce. In generale sono di sapore e aspetto orientale, cioè preparati in sciroppo e molto dolci, come il baklava o il kadaif. Gli aperitivi bulgari più popolari sono lo slivova, acquavite di prugna, e la grozova, acquavite di uva. La nostra puntata termina qui. Io ringrazio tutti voi per essere stati in ascolto e anche la nostra graditissima ospite Radoslava Petrova. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un onore. Un onore per noi avere questa imprenditrice di origine bulgara che ha creato questa cooperativa di pesca composta da donne. In bocca al lupo per la sua attività. Io ringrazio gli ascoltatori, ovviamente in regia, prezioso apporto di Gianmarco Ferronato. A tutti voi una buona serata, l'appuntamento è per sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.